il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Le fonti di energia rinnovabile stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale. Ne abbiamo parlato più volte al quadrifoglio e qualcuno ricorderà che avevamo dato spazio ad una giornata virtuale di informazione sulle bioenergie promossa da Veneto Agricoltura a fine 2012, che si occupava in particolare di energia prodotta dal legno. Quest'anno la giornata virtuale ritorna ed è il prossimo giovedì, il 20 marzo, è dedicata ad altre due fonti di energia, i biocombustibili, il biogas e il biometano. Dalle 9.30 alle 17.30 gli interessati potranno richiedere informazioni tecniche, normative o sulle forme di incentivo esistenti contattando gli esperti dell'azienda regionale che risponderanno via telefono, mail, Twitter o Facebook. A quale indirizzo risponderanno lo diremo dopo, ora cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo a questo tema anticipando alcune questioni generali che poi chi vorrà potrà approfondire giovedì mettendosi in contatto appunto con i tecnici. Abbiamo ospite oggi Loris Agostinetto, tecnico del settore bioenergie proprio presso Veneto Agricoltura. Benvenuto in trasmissione. Grazie. Ecco, vorremmo subito entrare nell'argomento, intanto chiarendo di cosa stiamo parlando. Cosa significa biocombustibili e in particolar modo biogas e biometano? Nel caso del biogas e del biometano si parla in pratica di quel gas che si forma dalla digestione anaerobica delle deiezioni zootecniche, no? Degli animali da allevamento, oppure anche dei residui, praticamente la frazione umida, no? Dei residui urbani, il cosiddetto forsu, che anche quello con la fermentazione anaerobica poi forma questo biogas. Il biogas non è altro che è praticamente una miscela di gas in realtà che contiene un 50-55% di metano, proprio metano come quello che conosciamo noi di origine fossile, CH4, e il resto è anidride carbonica e altri tipi di gas, un po' di idrogeno, altre sostanze praticamente che non servono come combustibile ma sono mescolate. Si tratta quindi di gas come quelli appunto di origine fossile, e forse sono di gas che vengono prodotti anche normalmente durante i vari processi che ci sono, in questo caso si tratta di fare in modo di poterli recuperare. Sì, esatto, questi qua sono tra l'altro gas che sarebbe quel metano lì, per esempio del biogas, no? Con le deiezioni animali, se venisse sparso sul terreno come viene fatto normalmente, va in atmosfera e il metano sappiamo che fa un effetto serra ancora molto maggiore, è un gas serra ancora più potente della CO2 per dire, no? Invece in questa maniera noi lo recuperiamo e viene utilizzato per produrre energia che può essere proprio energia elettrica nel caso di impianti a biogas oppure poi trasformato in biometano che può essere utilizzato anche per autotrazione per dire. E si tratta quindi di un'energia totalmente rinnovabile e proviene in pratica dall'assorbimento dell'energia solare in pratica nelle piante, le piante poi vengono mangiate agli animali oppure nel caso dei rifiuti e poi non è altro che quella stessa energia che viene trasformata per via chimica appunto per produrre energia elettrica o per autotrazione. Ecco, chi è interessato a questo? Mi pare di capire che stiamo parlando principalmente di agricoltura, quindi di animali o di allevamenti appunto su grande scala? Sì, allora nel caso io ho parlato di deiezioni, in realtà poi negli impianti a biogas si può mettere dentro anche, per esempio adesso viene utilizzato molto silo mais, a volte in quantità preponderanti, e sono tutte quelle coltivazioni, colture che poi possono essere messe nel digestore anaerobico e che alla fine formano questo biogas. Quindi sono interessati principalmente gli agricoltori, ma anche quelle aziende municipalizzate dei rifiuti per dire, no? Quando si parla della frazione organica dei rifiuti urbani sono interessate quelle società lì. Quindi interessa un po' tutta anche a livello così la cittadinanza, potremmo dire mondiale in un certo senso, perché dappertutto si producono queste cose qui. Si potrebbero utilizzare anche gli scarti alimentari, per esempio, dell'industria alimentare, che sono una notevole quantità, oppure anche gli scarti, non so, per esempio, nella macellazione, tutti quegli scarti lì possono essere utilizzati all'interno dei digestori e quindi produrre biogas. Ecco, non parliamo invece di scarti magari da giardini, non so, da sfalci o cose di questo genere. Lì è più difficile, perché in questo tipo di gestori qua, che si dicono miscelati, non può entrare la frazione lignea in pratica, perché la lignina blocca poi il processo di tutti quei microrganismi che formano il biogas. Quindi deve essere, potrebbe essere, forse per esempio l'erba, per esempio noi abbiamo un progetto europeo che è partito da poco, che si chiama GR3, in cui tutti gli sfalci di quelle zone dove non si utilizza l'erba per foraggio, ma che magari sono, che ne so, zone protette, oppure zone lungo i fiumi, che sarebbe tutta l'erba buttata via, oppure anche quello dei giardini, potrebbe essere utilizzata per il biogas. Però l'importante è che non ci sia una parte lignea, la lignina in pratica, perché è faticosa poi, cioè non si riesce in pratica, si blocca la digestione anaerobica. Lei diceva prima che in questi biodigestori viene utilizzato spesso il silo mais, non è questo un po' un controsenso? Cioè parliamo di rispetto dell'ambiente, dall'altra parte invece il mais che viene utilizzato per l'alimentazione animale poi va a finire per produrre energia, non c'è un problema un po' su questo? Sì, potrebbe essere anche questo discorso qua, nel senso che una parte di superficie viene sottratta a quella produzione di alimentazione, che poi è un discorso zootecnico, o per certi versi però, tipo non so, l'anno scorso in cui il mais aveva dei problemi di tossine e così, può essere poi recuperato lo stesso. Là si tratta un po' di un discorso più politico, fra virgolette, no? Sapere quando è meglio utilizzare questo oppure no. È un po' un dibattito aperto questo qui. Allora ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio: consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di biocombustibili per la giornata dell'energia e delle bioenergie promossa da Veneto Agricoltura. In particolar modo si parla di biogas e biometano e abbiamo come ospite Loris Agostinetto del settore bioenergie presso Veneto Agricoltura. Abbiamo parlato un po', cercato di capire di cosa si parla quando si tratta di biocombustibili. Capiamo anche le dimensioni del fenomeno. Cioè, quanto queste bioenergie in realtà potrebbero incidere sul fabbisogno energetico nostro? Sì, beh, oddio, come bioenergie in realtà, se andiamo proprio a livello globale, come si può dire, a livello proprio mondiale, su quello che è il fabbisogno proprio di energia con le biomasse non si arriva a grandi numeri, ma si può parlare di un 4% di tutta l'energia in realtà. Tenendo conto che non possiamo utilizzare oltre un certo livello il suolo che deve servire per produrre alimentazione e quindi più o meno la cifra può essere quella, però questo in termini percentuali sembra piccolo, se andiamo a vedere proprio i numeri di tutta quella colossale quantità di energia che l'umanità utilizza diventa una buona quantità. Ecco, e a livello economico invece per le aziende, perché a quanto pare si parla di aziende che possono provare a produrre energia in questo modo, c'è qualche vantaggio? Può essere... Sì, per l'azienda agricola sicuramente sì, perché l'energia elettrica che veniva prodotta, cioè che viene prodotta, viene pagata molto da GSE, no? il gestore dei servizi elettrici come rinnovabile, quindi non è solo integrazione del reddito, ma per certe aziende agricole è diventato addirittura il reddito principale, dove riescono a spuntare dei profitti. Adesso quantificare è difficile perché bisogna vedere caso per caso, però sono comunque importi non marginali, ecco, per un'azienda. Ecco, diceva prima che anche questo metano può essere utilizzato anche per l'autotrazione, questo può essere un ulteriore stimolo allo sviluppo anche di carburanti alternativi? Sì, allora il discorso del biometano è stato importantissimo, in realtà in Italia siamo praticamente a zero, a differenza degli altri paesi del nord Europa, centro e nord Europa, ma il biometano, che sarebbe in pratica il biogas, che viene depurato dalla CO2, quindi l'anidride carbonica che c'è dentro, da quelle parti di idrogeno o altre impurità, e diventa quasi al 100% metano uguale all'altro, solo che è di origine biologica, per cui non si mette CO2 nuova nell'aria e quindi in pratica non si avrebbe, serve per combattere anche l'effetto serra. E quel metano lì, quel biometano lì, che si può produrre in questo modo, poi può essere utilizzato tranquillamente come il metano normale nelle automobili, comunque proprio per autotrazione. E per l'Italia sarebbe parecchio interessante perché abbiamo il parco macchine di funzionanti a metano più numeroso d'Europa, che si concentra quasi tutto in pianura padana, e direi una roba in più che col metano si ha una produzione di polveri sottili, non dico nulla ma quasi, rispetto agli altri come alla benzina o addirittura al diesel, e nella pianura padana, dove abbiamo proprio il problema del ristagno, no, di queste polveri che poi dannose per la salute, col discorso del metano sarebbe un miglioramento eccezionale anche della qualità della vita. Quindi potrebbe essere un altro, sì, avrebbe degli sviluppi veramente notevoli. Quindi uniamo al risparmio del livello inquinamento con il risparmio, la sostenibilità energetica, quindi questo 4% si moltiplica e diventa anche sensibile. Ecco. Chiudiamo, dobbiamo un po' chiudere, però prima volevo dare i riferimenti. Allora, per chi volesse saperne di più, giovedì può telefonare al numero telefono 049 829 3847 per avere informazioni dalle 9.30 fino alle 17.30. Tutte queste informazioni in realtà le trovate sul sito www.venetoagricoltura.org, dove trovate anche riferimento Facebook, Twitter e mail a cui scrivere. E vi saranno anche altri ospiti poi oltre ai tecnici del Veneto Agricoltura, mi pare Stefano Guercini del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova e esperti del Consorzio Italiano Biogas. Ho detto correttamente? Sì, perfetto. Bene, allora la ringrazio e allora chi è interessato giovedì può mettersi in contatto con voi. Buonasera. Grazie. E passiamo adesso alle consuete notizie. Si apre venerdì 21 marzo la 35esima edizione di Agrimont, la fiera dell'agricoltura di montagna, che proseguirà nel quartiere di Longarone Fiere Dolomiti fino a domenica 23 marzo, per poi riprendere nel successivo weekend da venerdì 28 a domenica 30. In mostra vi è tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano e non manca una rassegna di stand con le produzioni tipiche dell'agricoltura di montagna, come formaggi, miele e insaccati. Ci spostiamo a Brescia per un'altra fiera, sempre dal 21 al 23 marzo torna la Fiera di Vita in Campagna, la manifestazione promossa dall'omonima e nota rivista italiana Punto di Riferimento per gli appassionati di agricoltura amatoriale. Questa fiera è giunta alla quarta edizione e si presenta ampliata rispetto al passato. Prevede numerosi eventi che si possono trovare sul sito internet www.lafiera.vitaincampagna.it. Qui ci limitiamo a segnalare i mini corsi gratuiti tenuti da esperti in una piccola fattoria ricostruita dal vero, dove vengono simulate le principali attività di campagna. Andiamo verso l'estate e si inizia a parlare di gelato. L'area dell'Alta Marca e del Bellunese hanno in progetto una strada del gelato, un itinerario per valorizzare non solo le gelaterie del territorio, ma anche il patrimonio storico-culturale, forte di oltre un secolo di storia, che ha portato i gelatai veneti a emigrare in tutto il mondo. Come quel cadorino Italo Marchioni, che nel 1903 depositò negli Stati Uniti il brevetto del cono, inventandosi così il gelato da passeggio. Annunciata anche la data ufficiale di nascita della nuova strada del gelato il prossimo 24 marzo, in occasione della giornata europea del gelato artigianale. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.